L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti al consueto ripasso dell'ultima settimana di notizie che per noi dell'ottavo giorno è cominciata sabato scorso 11 luglio e che si è conclusa ieri, lo dico per i superstiziosi, venerdì 17 luglio. Abbiamo pescato come al solito tra i servizi che sono andati in onda in questa settimana nei GR di Radio 24 e devo dire che la scelta non è stata facilissima perché molte notizie sono rimaste fuori dal nostro pacchetto, per esempio lo sport dalla Formula 1 con la prima vittoria in carriera dell'australiano Webber ai mondiali di nuoto che sono partiti a Roma e poi le fibrillazioni del calciomercato e su questo insomma avremmo potuto veramente fare intere puntate. Non dimentichiamoci del Tour de France con l'Italia in maglia gialla in questa settimana. Tant'è, insomma, il bello e il brutto del nostro lavoro è proprio questo, scegliere i fatti più importanti della settimana e allora cominciamo con il nostro racconto. Sabato. Nella puntata di 7 giorni fa di Striscio, all'ultimo di sfuggita, avevamo annunciato l'arresto del presunto stupratore seriale di Roma. A caldo nessuno poteva naturalmente immaginare quelle che sarebbero state le conseguenze persino politiche di questa vicenda. Cominciamo allora dalla cronaca di sabato scorso con Maria Chiara Grandis. Dal carcere di Regina Coeli, dove è rinchiuso, Luca Bianchini, il presunto stupratore dei garage, tace di fronte agli uomini della squadra mobile di Roma, guidati da Vittorio Rizzi. Non dice nulla e assolutamente non risponde a nessuna domanda, è assolutamente come se fosse estraneo a quello che sta accadendo. Accusato di violenza sessuale per almeno 15 episodi, sequestro di persona e detenzione di armi da taglio, Bianchini, 32 anni, contabile, laureando in giurisprudenza, era insospettabile per la fidanzata, che lo definisce perfino noioso, per i colleghi del circolo del Torrino del PD che coordinava, per le vicine di casa a cui diceva di stare attente nei garage perché il maniaco è in agguato. Una doppia personalità, quella di Luca Bianchini, incastrato dal video di una telecamera di un garage a Tor Carbone, dove si vede un uomo con un passamontagna nero che tenta di aggredire una donna, dalla sua auto, che una testimone ha riconosciuto, e dal DNA estratto dagli abiti di due vittime di violenza sessuale. Il suo profilo genetico era già negli archivi delle forze dell'ordine dal 97, dopo che aveva tentato di violentare e uccidere una vicina di casa. Seguirono l'arresto e le cure in un centro di igiene mentale, che forse non sono bastate. Nella sua casa a Cinecittà gli agenti hanno trovato video di stupri, libri sull'argomento e un biglietto sul comodino con scritto «Voglio guarire». Allora, posto che tutti sono naturalmente innocenti fino a prova contraria e fino a sentenza definitiva, insomma, noto che ogni volta, per ogni tipo di crimine, i presunti colpevoli sono sempre insospettabili, sono uomini e donne tranquilli, bravi ragazzi, figli impeccabili. Insomma, vedremo come finirà questa storia, come proseguirà. Ma come dicevamo, intanto questa vicenda prende una impensabile, incredibile piega politica. Sentiamo su questo Paola Cavadi. Parla di una questione morale grande come una montagna, poi corregge il tiro e afferma: non volevo offendere nessuno. Le parole del senatore del PD e candidato al congresso Ignazio Marino scatenano la bufera nel partito dopo l'arresto di Luigi Bianchini, coordinatore del circolo romano del Torrino, accusato di essere l'autore di diversi stupri nella capitale. Trovo incredibile che un criminale possa essere arrivato a fare il coordinatore, ha detto ieri Marino, interrogando il partito sui criteri di selezione dei dirigenti locali. Sono messi lì dall'alto, ha aggiunto il senatore, e senza neanche sapere chi siano in realtà. Secca la replica di Dario Franceschini. Marino offende centinaia di migliaia di iscritti. Da segretario ho il dovere di respingere le sue parole. L'uscita di Marino non piace neanche a Pierluigi Bersani, che si dice profondamente dispiaciuto. Cose del genere, ha detto, non le pensa di noi neanche il nostro peggiore nemico. Cosa sarebbe successo se Bianchini fosse stato iscritto a un partito di centrodestra, chiede il capogruppo dei senatori del PDL Gasparri. Intanto il PD ha espulso Bianchini e potrebbe costituirsi parte civile al processo. Le ricadute politiche non finiscono qui, c'è tutta la serie di contraccolpi all'interno del Partito Democratico naturalmente, ma rispunta fuori in questi giorni anche la questione della castrazione chimica, che si può considerare una sorta di pena, antidoto, gesto preventivo nei casi di stupro, nei casi di violenza sessuale. Su questo sentiamo prima di tutto l'opinione del criminologo Francesco Bruno al microfono di Maria Chiara Grandis. Attraverso dei farmaci è possibile impedire, diciamo, al testosterone di fare la sua funzione. Questo produce nell'uomo una caduta della libido. Questo tipo di terapia può essere paragonata un po' alla terapia del metadone per i tossicodipendenti. Se una persona, per esempio, no, sente dentro di sé queste spinte forti verso lo stupro e sa che esistono queste terapie, può rivolgersi a un medico e a prevenirlo. C'è da dire che per esempio in Italia un ammalato di mente, se deve pagare le medicine o deve andare per forza al centro di igiene mentale, e non si può neanche scegliere lo psichiatra che lo cura. Quindi è una situazione in cui bisogna urgentemente riformare la nostra legge psichiatrica, perché sono troppi quelli che sfuggono ad una corretta diagnosi e ancora di più a una corretta terapia. Ludovica Giorgi, che è segretario nazionale dell'Unione delle Camere Penali, invece non sposa la linea della castrazione chimica, preferisce invece puntare su quella della prevenzione. Martedì la Camera approva il disegno di legge sulla violenza sessuale, che tra l'altro presenta grosse novità. Ci sono per esempio pene più severe, si arriva addirittura all'ergastolo con la morte in caso della vittima. I tempi di prescrizione poi si allungano, ma la sera prima, nel GR delle 19, proprio di lunedì, va in onda un'intervista a Ludovica Giorgi. L'intervista è stata curata da Raffaella Calandra. Tutta una serie di strumenti volti a garantire la prevenzione sono stati introdotti in sede emendativa, perché pur essendo previsti già in alcune proposte di legge, poi nel testo unificato del governo erano scomparsi campagne di sensibilizzazione, la specializzazione delle forze di polizia, per niente opportuni manifesti. Ce lo dice l'esperienza Loios e Raz, i due rumeni sottoposti a custodia cautelare per i fatti del parco della Caffarella, e mi pare che gli episodi di linciaggio collettivo servano a ben poco. Nel caso specifico di Roma c'è un precedente di polizia. Pressoché impossibile fare qualunque cosa. Il precedente penale è una condanna. Probabilmente lo Stato potrebbe mettere in atto, ma dei meccanismi di carattere assistenziale. Quello che si potrebbe attivare sarebbe un servizio di assistenza e cura, non di controllo. Chissà, magari questo signore, che in effetti cercava, pare, no, di superare, di vincere questo impulso, forse, chissà, magari con un effettivo servizio per la sua salute, forse, no? Non avrebbe, se li ha commessi, non avrebbe reiterato il fatto. Adesso ritorniamo alla sorte di Bianchini, questi gli sviluppi nella sua vicenda in carcere mercoledì. Da Roma il servizio di Savino Gallo. Sono almeno 12, secondo gli inquirenti, i casi di stupro in cui Luca Bianchini potrebbe essere coinvolto. Ieri la squadra mobile di Roma ha perquisito l'ufficio e il circolo PD del Torrino, di cui era coordinatore. Obiettivo della ricerca, gli slip che il presunto stupratore sottraeva alle sue vittime e il passamontagna che utilizzava per le aggressioni. Se ritrovati, si tratterebbe di ulteriori elementi di prova da aggiungere a quelli già in possesso dei magistrati, tra questi l'esame del DNA, che secondo il GIP Amoroso sarebbe identico a quello dello stupratore, e le testimonianze di alcune delle vittime. Una sarebbe riuscita a prendere il numero di targa della Ford Fiesta di Bianchini, altre due invece l'avrebbero addirittura visto in faccia, riconoscendolo poi dalle foto pubblicate al momento dell'arresto. Il 32enne romano però continua a dichiararsi innocente. Ieri, per la prima volta da quando è Regina Celi, ha parlato con i suoi genitori, rassicurandoli sulle stranietà ai fatti e aggiungendo che il nuovo esame del DNA riuscirà a scagionarlo. L'ottavo giorno. Domenica. È il giorno in cui Obama conclude il suo lunghissimo tour, un tour infinito che l'ha portato prima in Russia, poi in Italia per il G8 dell'Aquila, passando peraltro dal Pontefice in Vaticano con un incontro importante e significativo con Benedetto XVI, e infine nella sua Africa in Ghana. Forse il passaggio chiave di questa nuova missione all'estero del presidente americano, amato peraltro all'estero ma invece in calo di consensi in patria, dove impera la crisi economica, dove la disoccupazione sfiora il 9%. Dicevo, il passaggio chiave di questo ennesimo viaggio di Obama rimarrà proprio quello in Africa, ad Accra, nella Ghana. Sentiamo la cronaca di Sergio Nava e poi il commento dell'inviato del Sole 24 Ore, Mario Platero. The true sign of success is not whether we are a... Il futuro dell'Africa appartiene agli africani. Barack Obama ha riportato a casa il messaggio di speranza e cambiamento che l'ha portato fino al vertice della superpotenza americana. Ho sangue africano nelle vene e la storia della mia famiglia racchiude sia le tragedie che i trionfi della storia africana, ha detto Obama al Parlamento ghanese, dove è stato accolto trionfalmente. Mai immagine è stata più di impatto. Il primo presidente afroamericano che parla di fronte all'assemblea del paese africano, simbolo della democrazia. Obama non ha offerto compassione e pacche sulle spalle, spalle, ma ha portato un richiamo alla responsabilità. L'Africa non ha bisogno di uomini forti, ma di istituzioni forti, ha detto, mentre i deputati gli rispondevano al ritmo di Yes We Can. Ha teso la mano al sud più povero e dimenticato del pianeta in un'ulteriore apertura al dialogo. Dopo il mondo arabo è toccato al continente che è stato patria del padre. Ma non ha fatto sconti. L'America è pronta ad offrire aiuti, ma solo a quei paesi che se lo meritano. In questo rientra la filosofia della partnership da 20 miliardi di dollari per un'agricoltura sostenibile approvata al G8. E per questo Obama ha ricordato gli errori coloniali del passato, addossando però all'attuale leadership africana la colpa delle tragedie contemporanee. Nel pomeriggio, prima di ripartire, il presidente americano ha visitato il castello di Cape Coast, nei secoli scorsi l'ultima tappa per gli schiavi destinati alle navi dei negrieri. Realista come sempre nel suo storico discorso di Accra davanti al Parlamento del Ghana, Obama ha messo rapidamente da parte i ricordi delle sue stesse radici ancora vive, profonde in Kenya per affrontare i problemi che da sempre affliggono il continente. Ha cercato così di scuotere l'Africa dalla sua apatia, ha attaccato la corruzione dei giudici, dei politici, della polizia e ha indicato il percorso per realizzare il destino del XXI secolo: democrazia, istituzioni, sanità, fine ai genocidi, alle guerre civili. Sono responsabilità, ha detto, solo africane, e solo Obama poteva parlare a un pubblico in adorazione da padre severo. Solo lui poteva, come si fa in famiglia, stretta, criticare senza il sospetto che le sue critiche non fossero solo motivate da un amore disperato e profondo, anche nel ricordo del nonno cameriere dei coloni in Kenya. Ma i giovani che abbiamo incontrato, per loro il presidente resta soltanto americano, non basta essere nero, le storie sono ormai diverse, lo dice anche l'ex presidente John Rowland, il filo emotivo e sottile Obama non è importante perché è nero, ma perché porta un messaggio innovativo che ha entusiasmato americani, tedeschi, francesi e noi. Sarà, ma l'emozione per le strade è forte, emozionato anche Obama, in genere freddo, razionale, al forte, da dove partivano gli schiavi, stringe a sé le figlie, discendenti di schiavi, e dice: sono rientrate da queste porte da dove si partiva per non tornare. Come ci insegna la storia, le emozioni da sole a volte possono mobilitare l'impossibile. Sulla scena internazionale forse il punto nevralgico per la Casa Bianca è in questo momento l'Afghanistan. È lì che Obama sta concentrando truppe e sforzi militari. È lì che molti alleati, anche gli americani, stanno pagando un prezzo altissimo. Tra poco parleremo naturalmente della triste vicenda del nostro soldato morto martedì, ma anche gli inglesi stanno piangendo moltissimi soldati in questi giorni. Sentiamo gli sviluppi a rientro negli Stati Uniti sull'Afghanistan con Cristina Balotelli. È stato portato alla mia attenzione il fatto che non si sarebbe investigato a dovere. In una intervista alla CNN, Barack Obama fa sapere di essere favorevole ad un'inchiesta che faccia luce sulla strage di detenuti talebani avvenuta in Afghanistan nel novembre 2001. Così ho chiesto al mio staff per la sicurezza nazionale, spiega Obama, di raccogliere per me i fatti noti. Quando avremo messo insieme tutte le informazioni, probabilmente assumeremo una decisione sul tipo di approccio. A pochi giorni dalla conquista di Kabul, ha scritto due giorni fa il New York Times, almeno 1500 prigionieri talebani vennero uccisi dagli uomini di Abdul Rashid Dostum, signore della guerra, sul libro paga della CIA. I detenuti furono lasciati morire per soffocamento dentro ad alcuni container oppure crivellati di colpi di arma da fuoco sparati dagli uomini di Dostum. Il quotidiano ha anche rivelato che il governo di George W. Bush ha ripetutamente scoraggiato un'inchiesta avviata dall'FBI, dal Dipartimento di Stato e dalla Croce Rossa dopo la scoperta di alcune fosse comuni. Lunedì. E siamo arrivati a parlare della nostra politica italiana, in una settimana in cui da un lato si è parlato meno di escort, almeno rispetto agli standard, alle abitudini delle ultime settimane, degli ultimi mesi, e si è parlato invece moltissimo di economia. Direi che le notizie su cui mi voglio concentrare sono due. La prima riguarda Grillo, candidato fantasma oppure no alle primarie del Partito Democratico, e la seconda è la reazione invece di Napolitano, del Presidente della Repubblica, davanti al pacchetto sicurezza, che firma però con delle grosse riserve. Cominciamo però dalla vicenda di Beppe Grillo. Lunedì mattina infatti bisogna fare i conti, soprattutto all'interno del PD, con l'annuncio che il giorno prima attraverso il suo blog Grillo aveva fatto di volersi candidare proprio alle primarie del Partito Democratico. Sentiamo prima di tutto la sua voce al microfono di Paolo Piacenza. È una cosa seria, non è una buttada, diciamo, una provocazione. adesso domani il problema è devo iscrivermi, sono a Gusuzada Zagausu di sotto e devo cercare una sede del Partito Democratico in Sardegna, sono qua e devo, quindi la cosa è vera, non è... Deve anche trovare 2000 persone, certo. che la candidino, anche di più, giusto? Anche di più, dobbiamo controllare anche di più, certo. Sono 5 circoscrizioni nazionali, quindi vediamo, ho visto un sacco di gente che si sta iscrivendo. Ecco, lei dice non è una provocazione e puntiamo... Assolutamente, si può vedere come una provocazione, ma per riempire il nulla, insomma. Noi andiamo lì per riempire un vuoto. Abbiamo dei programmi da... Parlamento pulito, al V-Day sull'informazione, sulla legge Gasparri, abbiamo la Carta di Firenze, abbiamo le 5 Stelle sull'energia, sulle rinnovabili, sulla mobilità, sul wifi libero e gratuito. Basta aprire il blog o seguire, aver seguito quello che ho detto negli ultimi 10 anni, anche di più, e riempiamo un vuoto terrificante, apriamo la politica ai cittadini. E il cavallo di Troia può essere il PD, anche questo PD? Guardi, io voglio arrivare a parlare a milioni di giovani che hanno creduto in un progetto che non c'è mai stato, i quali poi credono assolutamente in queste idee che portiamo avanti sull'energia, perché sono le idee del futuro. Di fronte all'uscita di Grillo rimane il dubbio se il comico attore, ormai capopopolo per certi versi, stia facendo davvero sul serio o la sua sia l'ultima delle tante provocazioni a cui ci ha abituato. Nel Partito Democratico scoppia naturalmente il caso, il clima direi è frenetico e in alcuni casi persino irritato. Ecco le reazioni raccolte in questo servizio da Montecitorio di Elisabetta Fiorito. Voleva gettare scompiglio e c'è riuscito. Beppe Grillo si candida alla corsa per la segreteria del Partito Democratico, ma non è detto che la sua proposta sia accettata, anzi è più probabile che sia bocciata. Questa mattina il comico genovese si è iscritto alla sezione del partito di Arzachena, come spiega Sky. Io mi sono iscritto stamattina ad Arzachena, ho fatto la domanda. Poi se troveranno che il terzo comma del quarto regolamento, del quinto paragrafo bis del loro regolamento, che io me lo sono letto tutto, se si inventeranno qualcosa ne pagheranno le conseguenze. Intanto Piero Fassina attacca il comico genovese, fondi il suo partito, mentre Pierluigi Bersani spiega che il PD non è un autobus dove si sale per fare un giretto. Diverso il parere di Ignazio Marino. Seguendo le regole della democrazia e le regole che un partito democraticamente si è dato, chiunque abbia le carte per candidarsi lo debba e lo possa fare se lo desidera. Il dibattito prosegue, rimane fitto per tutta la settimana, l'impressione è che i no, le opposizioni a Grillo siano prevalenti, siano maggiori rispetto a chi invece è favorevole anche alla sua corsa nelle primarie del Partito Democratico. Invece adesso saliamo di livello, almeno saliamo di altitudine, perché andiamo al Colle da Napolitano, dal Presidente della Repubblica, che mercoledì firma il provvedimento sulla sicurezza varato dal Parlamento e fortemente voluto dal Governo e in particolare dalla Lega, però con molte riserve. Sentiamo su questo il servizio di Raffaella Calandra. Alla fine la sua firma al pacchetto sicurezza la mette, ma nero su bianco il Capo dello Stato mette anche le sue perplessità e preoccupazioni sulla legge che introduce tra l'altro il reato di clandestinità e le ronde. Il Presidente della Repubblica non può restare indifferente, scrive, davanti a dubbi di irragionevolezza e insostenibilità, disomogenea ed estemporanea, e definisce Napolitano molte delle norme di questo pacchetto, frutto di un clima di concitazione e congestione, dice, che mette in gioco la qualità stessa del modo di legiferare. Se il testo non è stato fermato dal Colle è in virtù dei provvedimenti contro la malavita organizzata, ma sul resto i rilievi, 9, vengono messi in fila uno dietro l'altro e Napolitano sollecita una rinnovata riflessione, soprattutto su ronde e clandestinità. Il nuovo reato per il Colle apre la strada a effetti difficilmente prevedibili, mettendo fuori legge tutti gli extracomunitari senza permesso, con l'effetto effetto paradossale, dice, che rientrando andrebbero incontro solo ad una multa. Al Viminale, invece, Napolitano chiede un rapido e severo decreto con limiti e compiti delle ronde per ridurre al minimo, spiega, le tensioni e anche evitare che l'ormai illegalizzato spray al peperoncino favorisca la delinquenza di strada. Infine, il capo dello Stato rinnova il suo veto a leggi omnibus, soprattutto quando toccano diritti costituzionali. Indubbiamente questo non è un bel colpo per Berlusconi e per il governo, che appunto sul pacchetto sicurezza si è speso molto, soprattutto la Lega di Bossi. Il premier giovedì preferisce concentrarsi altrove, sull'Abruzzo, sulla situazione delicatissima del post terremoto. In Abruzzo torna Berlusconi per l'ennesima volta, peraltro a pochissimi giorni dal G8 dell'Aquila. E sentiamo proprio dal capoluogo abruzzese Francesco Ianni. Lo Stato coprirà il 100% delle spese necessarie per la ricostruzione degli edifici distrutti o fortemente danneggiati dal terremoto. Lo ha detto ieri il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a conclusione della sua visita all'Aquila, la 17ª per l'esattezza. Mai, ha detto, in eventi simili è stato concesso così tanto. Si è deciso che il contributo sarà non un contributo fino a 150.000 euro, ma sarà copertura integrale dei costi per la ricostruzione. Sempre Berlusconi ha annunciato nessuna nuova tassa per la ricostruzione. Noi cercheremo di far quadrare i conti e quindi di riuscire a diminuire altre spese, a eliminare sprechi e privilegi e quindi non fare una tassa di scopo. Girando poi tra i cantieri, Berlusconi ha detto che le case saranno consegnate dal 15 settembre entro la fine di novembre. Sono stati battuti tutti i record di velocità, ha proseguito il Presidente del Consiglio. È stato fatto tutto in tempi strettissimi. Infine, rispondendo alle domande dei giornalisti sul pagamento dei tributi pregressi degli sfollati a partire dal 1 gennaio 2010, Berlusconi ha risposto che non è così, non è stato così negli altri eventi, adotteremo la stessa disciplina. Per chiudere con la politica voglio tornare al caso Beppe Grillo. Da ieri Grillo risulta ufficialmente tesserato con il Partito Democratico, ha preso la tessera numero 40 del circolo Martin Luther King di Partenopoli in provincia di Avellino, quindi probabilmente la saga Grillo PD proseguirà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. L'ottavo giorno. Martedì. La notizia del giorno arriva dall'Afghanistan ed è una notizia luttuosa perché riguarda la morte di Alessandro Delisio, caporal maggiore italiano impegnato appunto in Afghanistan. È la 14ª vittima del nostro contingente da quando nel 2001 è partita la missione della NATO e degli Stati Uniti. Sentiamo la cronaca di questa triste giornata con Raffaella Calandra. Ancora 3 mesi di guerra. Il suo conto alla rovescia per il ritorno a casa, Alessandro Delisio, caporal maggiore della Folgore, lo aveva cominciato su Facebook, ma un ordigno artigianale esploso mentre tornava alla base di Farah lo ha fermato al 14 luglio. L'Italia così piange il suo 14esimo militare morto in Afghanistan. 25 anni di Oratino in provincia di Campobasso, ma in forza all'ottavo reggimento di Legnago, Delisio era stato anche in Iraq e la guerra per lui, come aveva scritto su internet, restava uno sporco lavoro che qualcuno deve pur fare. Negli ultimi giorni, con l'offensiva contro i talebani nella vicina Helmand, erano aumentati anche gli attacchi contro i nostri militari. È un momento difficile, ammette il portavoce del contingente maggiore Marco Amoriello. È un veicolo Lince, il reggimento che opera giù nella zona di Farah si sta occupando di fornire la sicurezza ad una caserma afghana che stanno ricostruendo. I nostri militari combattono una dura lotta, ricorda il generale Marco Bertolini, capo di stato maggiore della missione NATO, secondo cui l'attacco era contro le forze ISAF, non contro gli italiani nello specifico. Un distinguo lontano dal dolore di chi, anche con messaggi su Facebook, ora piange l'ultimo militare, ancora una volta un ragazzo del sud caduto in guerra. Sulla triste vicenda di Alessandro Delisio voglio dire una cosa, perché per una volta bisogna sottolineare che c'è stata una reazione composta, direi quasi patriottica, insomma nazionale, da parte di tutta la politica italiana, destra e sinistra, maggioranza e opposizione. Nessuno ha invocato ritiri strumentali dall'Afghanistan o ha lanciato accuse inopportune. Detto questo, però, rimane sul tavolo la complessità dell'Afghanistan, da cui Obama vorrebbe uscire. Obama sogna una exit strategy, però per ora poco praticabile. E ricordo che ad agosto sono in programma delle delicatissime elezioni presidenziali, quindi bisogna mantenere alta l'attenzione e sicuramente rimarrà alta la tensione in Afghanistan. Giovedì intanto la salma di Alessandro De Lisio ritorna in Italia. Sentiamo su questo il servizio di Cristina Balotelli. Una cerimonia breve e carica di dolore ha accolto a Ciampino la salma del primo caporal maggiore Alessandro De Lisio, 25 anni. Il C-130 è atterrato intorno alle 9. La bara, avvolta nel tricolore, è stata trasportata a spalla fuori dall'aereo da 6 paracadutisti dello stesso reggimento di Alessandro, l'ottavo genio guastatori di Legnago. Le autorità hanno reso omaggio al feretro, il presidente della Camera Gianfranco Fini, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, diversi parlamentari e i vertici militari. Su un cuscino sorretto da alcuni parà c'erano il basco amaranto e le decorazioni del loro collega. Così questa mattina è stato reso onore a De Lisio e al suo sacrificio in Afghanistan. Poco dopo la mezzanotte sono arrivati a Ciampino i 3 militari feriti, dei quali il primo caporal maggiore Simone Careddu è il più grave. Ha alcune vertebre fratturate e rischia la paralisi. Meno gravi il tenente Giacomo Donato Bruno e il caporal maggiore scelto Andrea Cammarata. Ieri pomeriggio a Campobasso si sono svolti i funerali del soldato italiano morto martedì in Afghanistan ed ora parliamo di un'altra guerra che fa altre vittime, parliamo di Russia, specie quando la parola Russia viene messa poi in connessione con la Cecenia, insomma chi tocca certi fili come quello della Cecenia rischia fino alla vita ed è successo in questa settimana proprio in ex Unione Sovietica, perché a 3 anni dalla morte di Anna Politkovskaya un'altra giornalista scomoda viene assassinata mercoledì. Si chiamava Natalia Estimirova. Però una differenza importante c'è tra ieri e oggi ed è soprattutto la reazione ufficiale dei leader russi. Sentiamo Sergio Nava. L'ennesimo assassinio di una giornalista scomoda in Russia ha provocato un'ondata di indignazione internazionale, cui si è unito anche il presidente Dmitry Medvedev. L'occasione è stata la conferenza stampa congiunta in Baviera con la cancelliera tedesca Angela Merkel, dove i temi di politica economica ed estera hanno lasciato presto il campo alla condanna dell'omicidio. Un assassinio inaccettabile su cui va fatta chiarezza, ha detto senza esitazioni la Merkel. Medvedev, confermando una posizione in controtendenza rispetto a quella mantenuta dal suo predecessore Putin in occasione dell'omicidio di Anna Politkovskaya, ha ammesso che l'omicidio di Natalia Estemirova è legato alla sua attività professionale, utile, testuali parole di Medvedev, in uno stato normale. Il presidente russo non ha lesinato lodi per la coraggiosa giornalista, definendola una donna che diceva la verità apertamente. Ieri anche l'Europa ha alzato la voce per condannare l'efferato omicidio, shock è stato espresso dalla Commissione europea, mentre la presidenza di turno ha sollecitato indagini esaustive e veloci e l'Europarlamento ha osservato un minuto di silenzio. Intanto, sul fronte dell'inchiesta, il governo ipotizza ben 4 piste, solo una delle quali però porta alla causa più probabile, il delitto legato alle sue attività. A Grozny, intanto, i colleghi dell'ONG per cui lavorava sono convinti che ci sia ben poco da investigare. Per loro il mandante ha già un nome, il presidente e padre padrone ceceno Ramzan Kadyrov. Mercoledì. Quella che vi stiamo raccontando è stata una settimana direi molto fitta, intrisa di appuntamenti e di notizie sul piano economico. Direi che abbiamo l'imbarazzo della scelta perlomeno su dove partire. E allora partiamo da quello che succede poi di significativo proprio mercoledì, perché avviene la presentazione del DPEF. Per Radio 24 a seguire i lavori c'era Paola Cavalli. Il 2009 sarà un anno difficile per l'Italia. Il PIL in calo del 5,2%, dato in linea con le previsioni di Banca Italia e Fondo Monetario, e il debito che balza oltre il 115%. E questo è il quadro contenuto nel documento di programmazione economica e finanziaria approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Ma i segnali degli ultimi 3 mesi non sono negativi, si legge nel testo. Per questo il governo prevede già dall'anno prossimo i primi segnali di ripresa. Nel 2010 il PIL riprenderà a crescere dello 0,5%. Il premier Silvio Berlusconi si è detto soddisfatto. C'è stata grande considerazione per la tenuta e la conduzione del bilancio italiano, che è stato ritenuto da tutti affidabile e credibile. Tra gli argomenti affrontati in conferenza stampa col ministro Tremonti anche l'emendamento della maggioranza al DL anticrisi sullo scudo fiscale. A un giornalista che gli chiedeva come si conciliasse il provvedimento con la lotta all'evasione fiscale, il ministro ha risposto stizzito: chieda al presidente Obama, sulla questione concordo con la politica americana. Poi, sussurrando all'orecchio del ministro Calderoli, il ministro Tremonti ha rivolto parole offensive nei confronti del giornalista. Adesso facciamo un breve passo indietro, perché luglio è il mese delle relazioni annuali dei vari garanti, insomma, come in una sorta di processione le varie autorità stilano il bilancio della loro attività. Lunedì tocca alla Consob, sentiamo Paolo Piacenza. Il quadro regolamentare nei principali mercati si è rivelato non adeguato. La missione che apre la relazione del presidente della Consob, Lamberto Cardia, nell'abituale incontro con gli operatori, fotografa le tensioni dell'annus horribilis dei mercati finanziari. Per non far pagare il prezzo di queste carenze ai soggetti più deboli, come le piccole e medie imprese in asfissia da credito, è necessaria, dice Cardia, una riforma di regole e controlli coordinata a livello innanzitutto europeo, per cui serve, aggiunge, una più chiara volontà politica. Il presidente Consob indica anche l'urgenza di una strategia regolamentare internazionale sulle vendite allo scoperto, ma soprattutto mette l'accento sulla tutela del risparmiatore. Si deve considerare il cliente come un soggetto con cui collaborare, che deve essere aiutato. Quanto più debole e scarsa può essere la sua preparazione. Se non cambia questo spirito, la normativa può dare le regole che vuole, ma il risultato finale non scende dall'alto fino in basso. Deve cambiare il sistema. Banche ed operatori dunque devono fare di più e anche per questo, annuncia Cardia, la Commissione ha già avviato una serie di controlli. Lo scorso giugno sono stati avviati accertamenti ispettivi nei confronti di 5 grandi gruppi, finalizzati alle verifiche delle concrete modalità di attuazione dei principi di correttezza comportamentale. Martedì invece tocca alla Banca d'Italia pronunciarsi sui conti pubblici italiani. La sua sentenza è decisamente implacabile. Ci racconta tutto Anna Marino. Nel bilancio dei conti pubblici dall'inizio di quest'anno sale il debito e scendono le entrate fiscali. Tocca un nuovo record infatti il debito pubblico italiano, che a maggio raggiunge quota 1.752 miliardi di euro. Secondo i dati della Banca d'Italia, da gennaio è cresciuto del 5,4%. Questo si accompagna a un calo del 3,2% degli incassi del fisco nei primi 5 mesi dell'anno, secondo Banca Italia, diminuiti di 4,5 miliardi di euro. Per il Tesoro il calo si aggira su una cifra simile, anche se la discesa è in fase di rallentamento e migliora rispetto ai risultati di aprile-marzo. Per la precisione, il calo è del 3,4% nello stesso periodo, da gennaio a maggio, e corrisponde a 4,8 miliardi in meno. Tra le imposte segnano una forte contrazione, intorno al 10%, l'IVA e l'IRES, l'imposta sui redditi delle società, quasi invariata l'IRPEF. Inoltre, per il Tesoro è una buona notizia la tenuta del gettito dell'autotassazione registrata dall'Agenzia delle Entrate, cioè dai versamenti collegati alle recenti imposte della dichiarazione dei redditi, in totale 300 milioni di euro in più rispetto ai risultati del giugno scorso. Poi a livello economico, ma anche a livello politico, c'è tutto un filone di discussioni e di polemiche attorno all'ipotesi di scudo fiscale rilanciata dal ministro dell'economia Tremonti. Tremonti, devo dire, va avanti per la sua strada con tenacia, con convinzione, ma anche chi lo critica, insomma, non manca di segnalare alcune cose che a suo dire non funzionano. Sentiamo tutto questo nel servizio di Vincenzo Miglietta. Credo che l'unico modo per contrastare l'evasione fiscale e i paradisi fiscali è svuotare la caverna di Alibaba e raddoppiare le sanzioni. È il ministro dell'economia Tremonti a difendere così in conferenza stampa l'emendamento sullo scudo fiscale presentato al decreto anticrisi. La norma prevede l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, a condizione che le stesse vengano rimpatriate da paesi extraeuropei oppure da quei paesi dell'Unione Europea che garantiscono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. In particolare si prevede un'aliquota al 5% da applicare sulle attività detenute almeno al 31 dicembre 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. L'anonimato sarà garantito, ma nessun reato potrà beneficiare dello scudo fiscale. Sul piede di guerra l'opposizione, di illegalità sanata parla il segretario del PD Franceschini. Un altro condono, un'altra forma di dire che le regole non servono, che l'illegalità viene sanata. Critici anche UDC e Italia dei Valori. Lo ricordavamo pochi minuti fa, luglio è il mese dei garanti e martedì tocca a Ortis, che guida l'Authority per l'energia. Il resoconto è firmato da Paola Cavadi. Non sono piaciute al ministro dello sviluppo economico Scajola le parole del garante dell'energia Ortis sulla necessità di garantire maggiore concorrenza nel settore del gas. Nella sua relazione annuale, presentata ieri alle Camere, Ortis è tornato a chiedere un intervento che ridimensioni il peso dell'ENI sul mercato. Resta sempre urgente la separazione proprietaria di Snam Rete Gas per risolvere veramente un conflitto di interessi non eliminabile, nemmeno con muraglie cinesi costruite da regolazioni troppo invasive. Valutazioni che è esulano dalle prerogative dell'autorità, ha risposto da Bratislava il ministro. Con le sue posizioni, ha aggiunto Scajola, l'autority rischia di danneggiare grandi imprese nazionali. Dall'inizio dell'anno, secondo il garante, il prezzo dell'energia elettrica è sceso dell'8%, mentre quello del gas del 15,4%. Ma sulle bollette delle famiglie continua a pesare la forte dipendenza dell'Italia dal petrolio e la volatilità del suo prezzo. Il presidente dell'autorità ha puntato il dito contro le abnormi speculazioni che influenzano le quotazioni del barile. Un altro tema caldo di questi giorni a metà strada tra l'economia e la politica è senza dubbio quello delle pensioni. Il governo vuole accelerare i tempi per una riforma, ma non tutti invece tra le parti sociali sono favorevoli. Sentiamo Elisabetta Fiorito nel GR delle 19 di giovedì. Soddisfatto il governo, meno soddisfatta la CGIL. Per il ministro del welfare Maurizio Sacconi l'incontro con le parti sociali sulle pensioni è andato bene. Apprezzati gli interventi in materia previdenziale del decreto anticrisi che includono l'innalzamento a 65 anni per le donne impiegate nella pubblica amministrazione e l'adeguamento dell'età pensionabile in relazione all'allungamento della vita. Così Sacconi. Gli incontri con le parti sociali sono stati molto positivi. La consultazione ha consentito di registrare il consenso di tutti, tranne alcune perplessità della CGIL, che peraltro a mio avviso si è espressa in termini sostanzialmente costruttivi. Ma la CGIL non esprime solo alcune perplessità, la chiusura è netta. Morena Piccinini, segretario confederale CGIL. La CGIL è totalmente, profondamente contraria, è contraria all'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore pubblico. Siamo poi contrari al fatto che dal 2015 si riparta con un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile. Escluso invece l'innalzamento a 65 anni per le donne che lavorano nel settore privato. L'ottavo giorno, giovedì. Ora apriamo una parentesi giudiziaria, nel senso che in settimana ci sono due processi che arrivano a sentenza, sentenze molto attese e che poi faranno molto discutere. Cominciamo dalla sentenza che arriva giovedì nel cosiddetto processo Abba, che coinvolge la terribile storia di un ragazzo di colore ucciso dai titolari di un bar dopo un piccolo furto. Ci racconta tutto Irene Privitera. Padre e figlio condannati a 15 anni e 4 mesi di reclusione per concorso in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Questa è la decisione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano Nicola Clivio per l'uccisione del 19enne Abdul Salam Guibre. La vicenda. All'alba dello scorso 14 settembre nel bar di Fausto e Daniele Cristofoli entrano alcuni ragazzi di colore che rubano un pacco di biscotti. Poi scappano inseguiti dai titolari dell'esercizio di via Zuretti a Milano. In pochi minuti scoppia una rissa, testimoniata dalle telecamere di sicurezza di un'azienda, nella quale i due baristi picchiano con una spranga un giovane. Cittadino italiano, 19 anni, di colore, originario del Burkina Faso, era conosciuto come Abba. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Ai genitori del ragazzo è andato anche un risarcimento di 100.000 euro e a ciascuna delle sorelle di Abba e Cristofoli devono una somma di 25.000 euro. Un'altra sentenza, direi forse ancora più eclatante, giunge martedì, era già arrivata due giorni prima martedì, ed è quella legata al processo per la morte del tifoso della Lazio Gabriele Sandri. L'esito è ben diverso ad Arezzo rispetto al processo Abba e diversa anche la reazione di chi è in aula. Dalla città toscana ci racconta tutto Daniele Morini. La protesta e le grida sono immediate quando gli amici di Gabriele Sandri capiscono che Luigi Spaccarotelle è stato considerato colpevole, ma condannato solo a 6 anni per il colpo di pistola mortale del novembre 2007. Il pianto, qualche malore, ma soprattutto la rabbia per quella pena considerata insufficiente a lenire il dolore di una famiglia. Parole dure anche quelle del padre di Gabriele, Giorgio Sandri. Mia moglie l'hanno ammazzata in questo momento. Vergogna. Alla fine il fratello di Gabbo, Cristiano, a invocare la calma tra i tanti che hanno assediato a lungo il tribunale di Arezzo per evitare di uccidere Gabriele, dice per la terza volta. Facciamola finita, vi prego ragazzi, vi prego. E poi lo sfogo, sempre di Cristiano Sandri. L'omicidio di mio fratello è stato qualificato come un investimento casuale su un'autostrada. Ditemi voi se è giusto che la mia famiglia possa credere nella giustizia. Ma questa è una domanda che faccio a tutta Italia. Venerdì. Ci trasferiamo in Indonesia, ieri al centro di una impressionante catena di attentati. Iniziamo dalla cronaca di quello che è successo.

Addirittura in settimana abbiamo letto di quello che sta accadendo in Belgio, dove l'esercito addirittura sta distribuendo centinaia di migliaia di mascherine per proteggersi dal contagio. Poi in Cina, come tradizione, non vanno per il sottile quando si tratta dei controlli negli aeroporti, negli ospedali, nei posti di lavoro. E lunedì addirittura si era già pronunciata l'OMS. Sentiamo Sergio Nava. La pandemia di febbre suina è inarrestabile e tutti i paesi avranno bisogno del vaccino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme rosso sulla pandemia che nel silenzio dei media ha continuato a colpire e ad espandersi, soprattutto nell'emisfero australe, in questi mesi, nel pieno dell'inverno. L'annuncio dell'OMS rappresenta il risultato dell'indagine di una commissione di esperti presentata nel corso di una conferenza stampa. Di qui la necessità per tutti i paesi di rifornirsi del vaccino, partendo con un programma di copertura riservato a coloro che lavorano nel settore sanitario, a seguire le donne incinte, le persone affette da malattie croniche e i bambini con oltre 5 anni di età. I vaccini dovranno essere assunti nel periodo tra settembre e ottobre. Secondo Cuauhtémoc Ruiz, coordinatore dell'Organizzazione Panamericana per la Salute, i laboratori che producono i vaccini sono in grado di rifornire il mercato con 2 miliardi e mezzo di dosi in 6 mesi, ma ci vorrà oltre un anno per ottenere la quantità di dosi sufficienti. Intanto in Gran Bretagna sono salite a 17 le vittime della nuova influenza dopo che un medico della regione del Bedfordshire è morto. Successive analisi hanno dimostrato la sua positività al virus H1N1. Abbiamo finito anche per oggi, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.